我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 带您遨游缤纷多彩的 CD 世界，带您畅享音乐的盛宴。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点19点播出 CD 博览。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天带来的是戴卡唱片公司发行的帕瓦罗蒂纪念经典专辑中的第一张 CD， 演唱曲目有今夜无人入睡、冰凉的小手、祝酒歌、圣洁的阿依达、美女如云、星光灿烂、穿上戏装、女人善变、花之歌、天空和海洋。 Stanza, guardi le stelle che tre. Yeah. sogno s'avverà se un esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di renti tutta c'è Aida tornarmi là un ricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto celeste Aida questa quella per me pari sono a quant'altre che intorno, intorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meglio dura che ad altra beltà la costoro apparenza è quel dono di che il fato nel fiora la vita so di questa mi torna gradita forse un'altra forse un'altra domanda sarà un'altra forse un'altra domanda sarà la costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo crudele so chi vuole si servi fedele non m'amorno se non m'è libertà le mariti il geloso amore e gli amanti le smania e le rido a codarre no se tocco lo spido se mi pugge se mi pugge una qualche beltà se bella sì che Ever, ever, ever, Confida

stella di lume. Vieni la donna, vieni. santi, l'arte nel suo